State ascoltando, Radio Panza. Oh, ciao a tutti, e allora come la luna ciclicamente Radio Pazza torna ad assillarvi e rompervi le orecchie. Io sono DJ Gregs in compagnia dell'altra faccia della radio. Sì, facce che non vedrete mai, io sono Buck. A parte sulle prime pagine dei giornali della cronaca nera. Sì, a fumetto ce le fanno le facce. No, volevo dire, finalmente ritornati insieme dopo tanto tempo, riuniti nello stesso luogo fisicamente, abbiamo scelto come location questa volta il mio garage, reduce da nottate passate a comporre musica o a suonare o semplicemente a bere o pregarsi fino a svenimento. La chiameremo Session Garage, no? Dalla migliore tradizione dei più grandi gruppi della storia della musica, no? C'erano tutti quanti una Session Garage. Eh sì, questa è diventata una radio garage, insomma. Speriamo che non diventi mai una radio tombino. E intanto noi andiamo avanti con il nostro primo pezzo, che fa parte di quella famosa categoria con i brani dal titolo impronunciabile. Esatto. E in questo caso abbiamo una strepitosa voce di Demetrio Stratos con gli Area, e il mio compare proverà qui a interpretare. Bach legge il titolo del brano degli Area. Hommage a Violette Noiser. Na na na na na da rum do. Se fossi pazzo e dopo internato approfitterei di un momento di lucidità. Lasciate il mio delirio, mio unico martirio, che faccia fuori meglio un dottore. Sì, un dottore. Credo che ci guadagnerei come gli agitati in cella, finalmente lasciato in pace, tutto tace. So che se fossi pazzo e dopo eternato approfitterei di un momento lucidità. Lasciate il mio delirio, mio unico martirio, che faccia fuori meglio un dottore. Sì, un dottore. Credo che ci guadagnerei come gli agitati in cella, finalmente lasciato in pace. Comunque, a parte gli scherzi, dai, una voce indimenticabile è quella di Demetrio. Indimenticabile, certo, a ricordarsi, insomma, le partiture, ecco. Sì, lui era un, veramente un piccolo geniaccio, molti hanno provato ad ispirarsi a lui e pochi ci sono riusciti. Su internet ci sono, vabbè, da scaricare, insomma, ci sono dei bellissimi video, soprattutto didattici magari, che vengono dall'archivio della RAI o dell'archivio Luce, insomma, cose molto belle da scaricare, dateci un'occhiata, Demetrio Stratos. Sì, dopo questo momento didattico, no, perché Radio Pazza serve anche questo, insomma. Benvenuti su Reeducation, no, Channel, no, Mbuti! Vecchie rimembranze, amico mio. Senti, ma a proposito di vecchie rimembranze, dopo Demetrio Stratos passiamo anche a un altro vecchietto a sto punto. Vecchietto ma sempre giovane, insomma, un po' come un grandissimo cipresso che sovrasta il cimitero della musica italiana. Anche se, dai, in un certo senso le cose che fa adesso sono completamente diverse da quelle che faceva in gioventù. E infatti noi passiamo a qualcosa di abbastanza vecchio. È uguale, non, nel caso di questo artista, che poi diremo il nome, non voglio troppo soffermarmi né sugli inizi né sulla fine, anche se poi è una fine ancora in corso, tra virgolette. Anche io sono stato innamorato della sua fase mistica, quella in cui lui si credeva un po' la resurrezione incarnata, la reincarnazione del Cristo. A me piaceva quando faceva Bingo Bongo. No, io mi riferivo insomma alla sua fase John Lui. Ebbene sì, ci stiamo per ascoltare qui su Radio Pazza Celentano. Adriano Celentano con Un bimbo sul leone, remake di una sigla dei cartoni animati, almeno dal sound. Corri ragazzo laggiù. Solo me ne sto alla finestra, oggi è un giorno in bianco e nero, pioverà. Cerco malinconico nel tempo qualche sogno che ho già fatto anni fa. Il cielo ha disegnato sopra i vetri fiori blu e c'è una nuvoletta che discende di lassù. Si apre in due metà qui di fronte a me. Quanti belli colori in quella nuvola e quanta gente allegra. Sopra a un leone c'è un bimbo che invita anche me a cavalcare tutti gli animali che sa parlare come noi. E ridendo ha ragione di pensare che le bestie siamo noi. Là nei prati azzurri galoppando sui cavalli bianchi e neri giocherò. Sulle grandi ali colorate di bellissime farfalle volerò. Seguendo le formiche in fila indiana marcerò. Poi ruberò il violino alla cicala e suonerò. E chi mi ascolterà canterà con me. Quanti belli colori in quella nuvola e quanta gente allegra. Sopra a un leone c'è un bimbo che invita anche me a cavalcare tutti gli animali che sa parlare come noi. E ridendo ha ragione di pensare che le bestie siamo noi. Il cielo ha disegnato sopra i vetri fiori blu e c'è una nuvoletta che discende di lassù. Si apre in due metà qui di fronte a me. Quanti belli colori in quella nuvola e quanta gente allegra. Sopra a un leone c'è un bimbo che invita anche me a cavalcare tutti gli animali che sa parlare come noi. E ridendo ha ragione di pensare che le bestie siamo noi. Oddio, questo chi era? Scatman John, vero? Sì, Scatman John, che insomma aveva lanciato nel mondo della dance music l'uso dello scat. Sì, mi pare fosse un classico degli anni 90, se non sbaglio, no? Che poi, a proposito degli anni 90, ragazzi, lo sapete che sono finiti? Cioè, gli anni 90 ormai sono terminati, si fanno per la prima volta. Noi una volta andavamo a ballare le serate degli anni 80, no? Vi ricordate Depeche Mode, i Cure, queste cose qua? Invece adesso ci sono le serate degli anni 90 con Scatman John, Hans Van Polizein, The One Shot Techman e chi più ne ha più ne metta. Non da sottovalutare poi anche gli altri generi come il grunge, come non so, certi filoni della musica metal che oggi si ripropongono come revival. Sì, no, è chiaro che gli anni 90 hanno prodotto un sacco di cose molto interessanti. Sul grunge sono completamente d'accordo, però sono queste quando parliamo di serate che ripropongono la musica di un'epoca, insomma, passano sempre quelle che era il trash, e il fatto che stiano passando finalmente, anzi hanno iniziato quest'anno a passare le serate anni 90, significa, ragazzi, che siamo mai fuori dai giochi, i capelli bianchi. Ma i capelli bianchi, cioè, credo ci siano venuti per altre ragioni, non diciamo quale. Ecco, lasciamo perdere. Comunque, ma senti, questa ambientazione così è alla Tarantino, fantastico, bellissimo, non posso non continuare con un pezzo magari che possa richiamare questo tipo di sonorità, magari mischiate al punk. Questi sono i Scrambled Eggs con Russian Roulette. Come dici? Roulette? Sì, no, mi sono un attimo mi è venuto un nodo la lingua. I shoot you in the head, you shoot me in the leg. Russian Roulette, no safety net, no. Stay in bed, you go instead, go. Don't leave our host completely lost now. Love your dough, but I hope you choke. figo sto pezzo, Russian Roulette, no, insomma, sotto a chi tocca. Sì, questi erano gli scrambled eggs, cioè uova strapazzate, in riferimento alla sensazione che ti lascia ogni loro performance, credo, quindi un po' così, un po' sbattuto a destra e a sinistra, sì, però bello da bugare. Sì, un uovo alla coq. Non lo so, mai venuto. Pensavo a tutti i piatti improbabili che si possano. Ma hai mangiato la trippa di uova? Trippa di uova? Sì, sì, sì. Cioè, la versione ovoidoide della trippa. Non capisco, la mangi col guscio o senza? No, no, senza, senza. Spiega, come si fa? Sai, una specie di piadine frittatine, no? Molto sottili. Poi tipo, li tagli tutte striscette e poi fai una sorta di sugo, poi, no, formaggi, grassi, la cifra, boh, viene una specie di trippa. Poi... Ma c'è la trippa o no? No. Ah, e quindi è una trippa virtuale. Esatto. Come quella che tutti noi desideriamo, invece ce la ritroviamo fisicamente addosso. Senti, facciamo così, intrippiamoci con il prossimo pezzo allora. Sì, sciogliamo la trippa muovendoci al ritmo di funk. Questo è Hank Ballard con un pezzo intitolato From the Love Side. Oh yeah. Showtime! Sì. Poi figuriamoci ad agosto. Io rimango bianco anche il 15. Vabbè, il Ferra, non ci vai. Bella Ferra. Io vado sempre al mare tutta l'estate. Beato te. Io d'estate vivo praticamente di notte, cioè come d'inverno un altro canto. Giri di notte lungo. Con le anime perse. Questa sembra molto la Piero Bellù. Anime. È una citazione corta. Ah, è vero. Come sei corto? Come sei corto? Comunque dicevamo, no, Hank Ballard, il funk, bello, bello, dopo un po' che parli. Ma è una dimensione, insomma, se riesci a entrare in trance. Nullo fate, nullo fate. Senti, senti, ma diciamo qualcosa a proposito di questa puntata, anzi, che cioè, pintiamolo con queste disquisizioni amene. Noi siamo felicissimi, stiamo tutti abbracciati tutto il tempo, contenti come due amichetti che non si vedevano da tanto tempo. Anche perché poi è così. È vero, è vero, è vero. Finalmente noi registriamo Radio Pazza con un unico microfono che teniamo calorosamente insieme nelle nostre mani. Senti, è stata finita a non entrare in trance. No, no, no, no, no, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Senti, e smettere di ridere. Ma vabbè, senti, dai, andiamo avanti nel frattempo. Cosa abbiamo nel... Senti come eri imposta la voce. Sì, no, devo tirare fuori la parte macia che c'è in me. E lo facciamo facendo un cambio di musica molto, diciamo così, audace. Neanche troppo, insomma, passando dal funk all'elettrofunk, qui ascoltiamo un pezzo rivoluzionario per quanto riguarda sia il mondo del funk che il mondo dell'hip hop. Che è il mondo del dog. Il mondo del dog, il mondo cane, diciamo. Questo è George Clinton con la sua versione rivisitata modernamente con vari featurings di Atomic Dog. This is the story of a famous dog. Well, the dog that chases its tail will be busy. He's a clapping dog. Harmonic dog. Rhythmic dog. Rapping dog. Funky dog. Hopping dog. House dog. Street dog. Dogs of the world unite. Bow wow wow yippee yo yippee yay. Bow wow yippee yo yippee yay. Bow wow wow yippee yo yippee yay. It ain't Snoop Dogg, but I'm still a hog. It's Coolio, love food, better not the alley. Representing West Coast, come to Cali. To the Hoochies and the Civics and the Diamantes and the homies hitting corners and the Deuce or Trey. Now, give it up for the Funkadelic group decade and a half still bumping in the coupe. So why must I feel like that and fill up the room with funk and rap? Bumping that 9-6, atomic mix, moving and grooving. You and your trick, and I recognize it's a new generation. Till I die, it's still one nation under a groove. Nobody move as the Funkadelic use that tube. My paw, Shorty Coolio and the OG dog. Wrong like Parliament basslines, and I want me a vibe from the Funkenstein. My rhymes intertwine like zingers. Hey man, smell my finger. We bring ya 14 years of funk that's hard. No speed sticking, no right guard. Used to roll on craters, now we play Sega. A dip in the five on all go dates. A dog in the legs got his eye on the cat, and the cat can't understand why the dog like that. Flashlights on, cause no one knows when the nose goes. Those clothes, from a tele key, but you're telling me ATO with my CDOG. Yeah. Roof. Roof. Il problema che ho riscontrato più spesso in vita mia con la cultura musicale americana è proprio quella di dovermi, magari da solo, rifare di tutto un background che qui in Italia non c'è. Quindi, che ne so, George Clinton, cioè in Italia nessuno sa chi è. Non suonava il sax Clinton. c'è chi suonava Clinton e non il sax. Mi ha fatto venire in mente un barzelletto, ma troppo scena. Vai. Dopo. Sì, in privato, quando mandiamo il prossimo pezzo. La facciamo scaricabile, dai, la registriamo. Okay. Chi vuole le battute e scene, basta che scarica gratuitamente, senza diritti d'autore. Potete anche rivendervele. Le barzellette di Grex. Le barzellette di Radio Pazzo. No, di no, Grex. Le barzellette mie. Le barzellette tue, sì. Stavo dicendo... mi ha fatto perdere il filo, vabbè, non fa niente. Insomma, volevo dire che questo refrain, questo ritornello è stato reso celebre in tutto il mondo da Snoop Dogg, che poi paradossalmente in questo pezzo non compare. Sì, non, io non l'ho sentito, eppure ha una voce, diciamo così, che spicca sulle altre, no? No. Spicca. È una forte quella. Yeah. Forte ragazzo, forte. Sì. No, ma più che altro fammi dire due cose sul prossimo brano. Perché... dille sensate. Esatto, ma in questo caso è abbastanza difficile perché già insomma i miei neuroni stanno facendo a botte, sono in sciopero continuo da sempre. Lo dici a me hanno scambiato i film. Insomma, no, la questione è che il prossimo brano praticamente abbiamo un unico sospetto, che tra gli MC che vi partecipano ci sia Oscar Luigi Scafao. Sì, DJ Scafao. Però in verità noi non sappiamo nulla di questo brano. Io ringrazio Giacomino per avermelo fornito, ma non abbiamo né titolo dell'album, né titolo del gruppo o della crew o sarà sempre per noi traccia 16. Esatto, traccia 16 forever. Continuiamo con l'hip hop. Buon proseguimento. What you have on say on reckoning day. Alfabeto per la mente, il corpo e l'anima. Naviga tra blocchi di ghiaccio lontano fino all'effemeridi. Ready me ready, rimedi estreme e meredia. Spingi iodo san, ma iodo sangue in questa emorragia. Intorno resta cenere, nel centro del cratere vai cercando. Nessi d'amianto, messi di tanto in tanto. In questo magma muovi le labbra biascicando. Qui simultaneo non ci arriva, non è pronto. Estrometto setta, finia trip. Dividi quando genio fletto avanti fuori dalle produzioni. Ammuffite nei magazzini, tra archivi dimenticabili. Rex e rap, cestinabili takes. Sai che c'è che se, dopo un tot di tempo se non si impara, è come studiare psicologia della folla nel Sahara. Qui sempre Mardi Gras, girano wheels of steel come drum in Trinidad. In aria fuochi, un mare di mani, what a blood clot. State sicuro ca, big things a guan. C'è un mondo di forme e concetti che è afferrabile, ma bisogna aver la mente veramente prensile qua. Come utensile marchi male, più di gelatina genitale. Sei così geniale che andresti a Galatina, ma chiedendo a tutti di poter sciare. E brutalizzi la musica, ma per me è ormai normale. Annebbi lo scenario così tanto che non ho più nulla da citare. Competition rise up and they fail. One shot fire enough, lyrics from hell. Stepping in arena, them not live to tell. Point blank to them, no peace heads with swell. Salutai, rutai, make me happy, boom, bye. Mi sa che non ti informi, giangi dormi, ciò che affermi è da testare. Qui le frasi fanno sesso con rullanti, marci da un quintale. Porto dote, blocco note su block notes. Bastoni tra le ruote a chi ci scuote per ragioni ignote. Li porto quote su un progetto, poligoni incastrati ad effetto perfetto, calcolati. Charlie, ho profumi come una checca oppure puzzi. Turineo ex, we got the funk come Buzzi. Tutti sti tizi all'inizio peccano di vizi. La gavetta non la velocizzi se prima non ci analizzi. Pezzi su pezzi, rincaro dei prezzi. Io con i miei poveri mezzi mando a casa te e i tuoi attrezzi. Grezzi, perdiamo la pazienza in un istante. Odio l'arroganza come i CD e le ristampe. Distanti i miei ragazzi lo sanno. 12 bit, 12 pollici, 12 mesi l'anno. Competition rise up and they fail. One shot fire enough, lyrics from hell. Step in I arena, them not live to tell. Point blank to them, no peace heads with swell. Salute I root I now make me happy, boom bye. È un match a colpi di cocktail, perché ha fegato c'è un premio. Ma se il funk fosse un alcolico, per me saresti astemio. Rivoluzioniamo il concetto di pandemonio. Ci credo questo manicomio. Non puoi puntare a strappare una sufficienza, se poi ti fai bocciare secondo per spiegarlo. Se vuoi ti faccio un disegnino apposta così puoi capirlo. Non farlo, ti prego non dirlo manco per scherzo. Non puoi rubarlo il rap manco se mandi Lupe il detto. Cedi nello sforzo di scendere a sti livelli, ma qua la vita è a rischio, non te la salva manco il Beghelli. I tuoi modelli si estinguono come i panda, se fanno canzonette da zeccara sarà banda in onda. La faccenda più estrema di questa scena coi compagni di merenda. Nell'arena appena ci sentiamo tra una cassa e un rullante, rendiamo radioattiva l'atmosfera circostante. Siamo, siamo chi siamo, siamo l'anello mancante. A modo nostro siamo pure bella gente. Rise up and they fell. One shot, fire enough. Lyrics from hell. Step in the arena, them not live fit tell. Point blank to them, don't piece heads with swell. Oh well, ring the alarm and toot to the bell. Competition rise up and they fell. One shot, fire enough. Lyrics from hell. Step in the arena, them not live fit tell. Point blank to them, don't piece heads with swell. Competition rise up and they fell. One shot fire enough, lyrics from hell. Step in the arena, them not live fit tell. Point blank to them, don't piece heads with swell. Oh well, ring the alarm and toot to the bell. Competition rise up. Oh, io ho scoperto l'hip hop abbastanza recentemente, è stato proprio il prima citato Giacomo, no? Che mi ha inoltrato in queste nuove sonorità musicali. E questo era un pezzo al quale partecipavano comunque svariati artisti della scena hip hop. Svarionati artisti della scena hip hop italiana, forse quelle che questa volta un pochino prevaricava sugli altri era Chaos. Mi chiamano al telefono in diretta. Allora chi è? Non lo so, 0656 non si dice. Pronto? Ciao Miki. Aspetta, metto pausa. Oh, ecco, sono tornato, amici cari. Dicevamo, spicca più degli altri questo tipo, Chaos, no? Era quello con la voce più incazzata. Che fai, il vago? Ma si fa così, uno sta lì, lavora, registra. Ma si spenge il cellulare, che diamine. Senti, ma se non l'ho spento neanche... Ma questa è la nostra chiesa, il nostro tempio. Aspetta che... Era giusto, era Dio. Mi chiamava Dio. C'hai avuto la chiamata. E non la potevo mettere in attesa, scusa. Certo, mettere Dio in attesa sarebbe stato un po' troppo. Sarebbe stato veramente come se avessi un cuore freddo. Un cuore freddo, freddo da legare. Sì, vabbè, no, era perché il brano è la prossima canzone. Prossima canzone con la base elettronica dell'immancabile DJ Graf. Cuori freddi. Lampioni rotti, chi vende il culo chi la roba. Notti che vanno a ruba, non è mai una fiaba. Vita di merda quando ci si mettono pure gli sbirri, culotti e carruba. È il servilismo della cleva che ci ingloba. Corri tra i più dritti, nessuno si fida. Una vita in fuga dove non sai la strada. Così speri che per un po' non succeda nulla. E chi lo sa da sé. Porti in là, vedi che si dice. Ora chi c'è, fa già quello che fa. Sembra che qualcuno sia felice. È un gran casino in quei posti senza luce. Ma chi parla serio lo fa sottovoce. Regole urbane di sempre, di ogni dove. Nel più vivo, comportamento animale istintivo. Il pane è pane, un impero imperativo. Comunicazioni tra malviventi. Poche parole, mille movimenti. Mentre si sta attenti. E quando arriva il mattino in due secondi, evita non solo e si va via. Così speri che per un po' non succeda nulla. E chi lo sa da sé. E poi il mondo manda e pensi sì. Che salotto io tu sanga quando è l'ora manca. La mamma mi chiama, io siamo in di fiamma. Ma non mi sento fida che non sono stanca. Qual è la colpa mia? Sicuro motivo ancora sono di vita una fitta. verità. Teste cadono a flotte, lotte, tre mignotte, due botte, ta ta, carni cotte, menti rotte, la notte sta con me. Bocche come grotte, rapper fanno fila stock per ghiotte, schiocche ridotte a numeri della lotteria, qui si fotte via e un perché non c'è. Una botte di risate, c'ho più rotte per queste menate, quindi basta, hasta la vittoria, sempre come il che. Ti spiego come vado alle mie parti, solo tre parole. Uno mancano le suole, due manca la luce del sole, infine si deduce che manca l'educazione giusta nelle scuole. Una lezione posso darti, la vita è un morso e sono pronto a sbranarti fino all'osso come un orso. Sono la stella della morte, lo sguardo lì su, mi vedi il giorno dopo, tu non ci sei più, non ci sono porte. Siete schiavi del destino, tutti giù, quel momento è vicino. È un'esperienza d'oro, ti metti con l'affetto, punto sull'effetto, giro sopra il tetto, ora tutti in coro. E modo il mondo manda e pensi sì, che salotto io tu sangue a buon per loro amante. La fama mi chiama, io siamo in dipiano. Comunicazioni fra malviventi, poche parole, mille movimenti. Yeah! Yo! Questo è l'hip hop. Ma qual è la più grande missione dell'hip hop, Buck? Lanciare un messaggio surrealista. Secondo me è quantomeno decifrabile. Cioè, qual è il contenuto di questa canzone o di tutte le canzoni hip hop che mediamente girano? Non lo so, l'hip hop nasce un po' come movimento della strada. Molti si aspettavano qualcosa di neorealista, invece è andato eccessivamente oltre l'immaginazione. Ma secondo te, no? Quei vecchi MC che vedevamo una volta con le braccia incrociate, pollice indice a L, per appoggiarci il mento con una faccia che guarda verso l'infinito, cioè non erano personaggi che attivi, in verità si stavano semplicemente domandando che cazzo stai di questo? Sì, sì, what is the message? Appunto, come direbbe qualcuno di loro, ehi tu? Ehi io? Ehi io, Beck. Questo è Beck con Hell Yeah. Looking for my place on assembly lines, fake prizes rising out of the bomb holes. Skeleton boys hyped up in purple, smoke rings blow from across the disco. Bank notes burn like broken equipment, looking for shelter, readjust your position. Thought control, those written confessions, two dimensions, dumb your head down. Duck, don't look now, company missiles, power is raunchy, rent a cops are watching. Make your dreams out of paper mache, cliche wasted, hate taste tested. Yes, not moving this way, I'm doing this thing. Please enjoy. Hell yes, now turning it on, I'm working my legs. Hell yes, now calling you out, I'm switching my plates. Please enjoy. Hell yes, now I'm cleaning the floor, my beat is correct. Stretch to the limit, attention span, snap back, retract. Collapse into laugh tracks, noise response, applause and hand claps. Floodgates open to the sound of the rainbow. Breaking points on the verge of pointless. Fools anointed to the followers' fanfare. Look for the common, not superficial. Code red, cola working for many crises. Profundity idols, rewriting the Bibles. With magic markers running out of the ink. Lives and white out, turn the lights out. Fax machine anthems, get your damn hands up. Hell yes, not moving this way, I'm doing this thing. Please enjoy. Hell yes, now I'm turning it on, I'm working my legs. Hell yes, now I'm calling you out, I'm switching my plates. Please enjoy. Hell yes, now I'm cleaning the floor, my beat is correct. Yes. Yeah, that's it. Hell yes. Hell yes. Hell yes. Hell yes. Meno male che abbiamo tagliato, sì. Un gioco di parole facile facile. Back back book. Sì, qualcosa del genere. Sì, i tre paperi. Vabbè, ma dai, era, per quanto scontato, era pur sempre una battuta, diciamo così, onomatopeica. Ecco. Tu li leggi nel vocabolario, certo, come no, sì. No, che volevo dire? Ah, sì. Volevi parlare a proposito del video di questo pezzo? Sì, appunto. Infatti, io ritengo che il video di questo pezzo. No, perché io mi ricordo. Bravo, taglia, accorcia. No, scherzo, dai. No, volevo buttarla sul demenziale. Insomma, mi è sembrato molto demenziale vedere dei robottini che rubavano il posto di lavoro a dei ballerini professionisti di Hollywood che avrebbero potuto guadagnare, insomma, il loro pane quotidiano, invece... Ma questa è la flessibilità, caro mio. Lo so, ma anche lì c'è crisi. C'è grossa crisi, ma senti, invece nella musica demenziale crisi non ce n'è mai. Voglio dire, è iniziato tutto con... con Frank Zappa, e adesso oggigiorno continua per esempio con Elio e le Storie Tese, no? Sì, continua alla grande, anche se poi Elio e le Storie Tese sono stati i primi dopo gli Squallor a diventare un gruppo conosciuto in tutta Italia di musica. Sì, io li ho conosciuti abbastanza recentemente, ma grazie a persone che me ne hanno lodato proprio la loro capacità tecnica nel suonare, ed è vero che... Ma io non me ne sono mai accorto se sono bravi o no, sinceramente. No, guarda, faccia attenzione, ascoltati pure le ultime cose, che so, quella che faceva tipo... Ma ti distraggono, te fanno ridere, tutto quanto. Vendi con l'Africa. Non lo so, sono distratto dalle risate, non me ne accorgo se sono bravi o no. Comunque. Fanno ridere, infatti. Fanno ridere, certo. Senti, questo pezzo che stiamo per passare, invece? Questo ha segnato un momento della mia adolescenza come quella di tutti, credo. Un disco fantastico. Rum Casusu Cicti, qualcosa del genere, insomma. Viva la Bulgaria. Sì, ma perché ha segnato l'adolescenza di un sacco di persone? Ah, dici per il titolo? Non è improbabile, quello segna la vita, insomma, di un po' tutte le generazioni, insomma. Come ha segnato la tua, scusa? Io questa l'ho sentita per la prima volta sui Brat Eventi, quindi... No, io c'avevo, 14-15 anni, una cosa del genere. Senti, mi ricordo io quando avevo 3 anni. Sì. Dai, non partiamo dalle cose dall'inizio della nostra infanzia. Che back non in the days. Non gliene Greg's in the future. Esatto. Senti, quindi adesso che facciamo? Ci ascoltiamo Elio con... Il Pippero. E vai. Veramente. Здравейте, ние сме загадката на българските гласове. Представяме ви Елио е ле сторие тезе. Grazie. Grazie al coro femminile di Stato della radio e televisione bulgara che ha portato in Italia finalmente un ballo a misura d'uomo, più umano, più vero. Un ballo sincero. Certo, vista la situazione internazionale, noi abbiamo dovuto promettergli Ramaya. Però amici, vi assicuro che ne è valsa la pena. Pippero. Pippero. Evviva l'Italia, evviva la Bulgaria che ci ha fatto dono del pipero. Ruotiamo le dita e uniamo le falangi, questo è il ballo del pipero. Amici, servizi segreti bulgari, non sparate più al Papa, ma dedicatevi al pipero. Popolo bulgaro, popolo italiano, servizi segreti bulgari e italiani, via. Sentite come pompa il pipero. Pipero. Ruotate le dita. Pippero. Unite le falangi. Bene, ora ripetete con me: più umano, più vero. Umano, più vero. È un ballo straniero. È un ballo straniero. Qui l'atmosfera sa di pippero. Se in discoteca balli upipero, pipero. Se in discoteca balli upipero, pipero. da sole. Molto bene. Pompa, pompa, Dio buono come pompa il pippero. Pippero. Le falangi, state stringendo amicizia con persone che hanno il colore della pelle diverso dal vostro? Bravi, ora è il momento di cantare a squarciagola. Ramaya, ramaya, ramaya, rara. Pippero è un ballo che io e te balliamo se l'amore c'è, e l'amore c'è. Guardi me, bugiardo io, bulgaro in te, bugiardi noi, sperando che l'amore c'è. Se parlo in te, tu parla in me, e saremo ok. Ehi, coro delle voci bulgare, io posso offrirvi qualcosa di molto meglio di un semplice ramaya. Potrei darvi Kung Fu Fighting di Carl Douglas. Fly Robin Fly, non mi interessa. Voi forse preferite il meglio dei Tavares? Ali Shuffle, niente. Disco Inferno, qualcosa di Cerrone, oppure Boney M, tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin, niente. Disco Duck, no. Gimme Some, qualcosa degli Oliver Onions, tipo Sandokan or The Way, niente. Cuba dei Gibson Brothers, dai. Dai, Cuba dei Gibson, dai, Brothers. Sì, sì, va bene. Ma dopo. Bravo Elio, bravo Fogli, bravi Chips, belli tutti, bravo Budello, eccetera. Belle le sonorità. Sì. Molto, come erano? Sì, sì, sì. Intense. Come l'altra volta, mi piace. Sai cosa non mi è piaciuto? Posso dirtelo, dai. Tu sai no, che no, siamo. Sì, sì, dimmi, dimmi. No? Dimmi, dimmi. Il finale del vitello. Sì. Cioè, bello il vitello, bello il finale, però questo orsetto che arriva dice, posso dire la parola? Sì. Ti inculo. No, tu l'hai detta. Allora... Perché? Cioè, cosa succede? Dopo. Ramaya. Oh oh oh Ramaya. Che è? Oh oh oh Ramaya. Oh oh oh Ramaya. Per chi di voi non lo sapesse, questa era la base sul quale è stata formulata un po' questa canzone di Ali e le storie tese, cioè sì. Ramaya. Io non ricordo l'autore, però mi è stata fatta conoscere da mio padre dopo che gli fece ascoltare il Pippero. Senti, però tu non ti ricordi mai. Licenziato. Licenziato, sei... via. Ma sono un uomo senza memoria, ringraziando Dio, insomma. Non bisogna mai. Vivo felice. Demente. Ecco, ma continuiamo a proposito di demenzialità, che sembra demenzialità, ma in verità nasconde grandi messaggi oscuri, ma spesso utili. Nasconde profonda intelligenza. Sì. Senti, che ci abbiamo adesso? Adesso abbiamo un altro comico milanese. Un piccolo grande comico. Piccolo grande comico Silvio Be... No, scherzo. Classic Clown. Classic Clown. No, questo è? E questo è Paolo Rossi, altro comico milanese, conosciutissimo, famoso in tutto il mondo, soprattutto anche per le sue Marte. Imprese calcistiche. Sì, esatto. E il pezzo com'è? E il pezzo è, si intitola Abdul, ma... Dimmi qualcosa perché non lo conosco. È un pezzo che parla proprio di un calciatore di colore che viene a giocare in Italia dalla profonda Africa e si scontra con non tanto la cultura occidentale quanto... Ciao ciao, bella Italia, sono venuto col trenino, ma sei piano assai vicino. Con un sogno che m'ammalia, vi ho visto in televisione, voglio anch'io giocare col pallone, sono grezzo ma son campione, mezzo faccio mezzo manicone, ma chi sei, chi sei, chi sei, tu chi sei, chi sei, chi sei? Sono un mediano di nome Abdullah, gioco riserva giù nel Gavulla, e nella giungla profonda e nera, tiro nel culo della pantera, tiro nel culo della pantera nera. andare qua su. Ma che nebbia sceso dal treno, ma che nebbia! Scusi, un essere umano, scusi, mister! Mister! Sa che? Ma che modo di parlare? Scusi, sono un mediano della Gabul, corro sulla fascia fino alla morte, faccio anche alcuni metri da deceduto. Sa mica dove è la sede del Milan? Che... Mamma mia, ma che cazzo mi frega, mica tieni all'Atalanta. Ma che lingua barbara, mi scusi. Atalanta, cos'è? Giocate con gli zoccoli? No, è una squadra con la maglia nera righe blu. Ah, anch'io giocavo in una squadra con la maglia nera righe nere. Che maglia è? Scusi. Niente, giocavo a torso nudo, e allora? Ma va via, nigger. Che brutta lingua, mi scusi. Va via, nigger, che brutta lingua. Poi, ma chi sei? Chi sei? Chi sei? Ma chi sei? Chi sei? Chi sei? Sono un mediano di nome Abdullah. Gioco di serva giù nel Gabulla. E la giungla profonda e nera. Giro i tacchetti e buonasera. Giro i tacchetti e buonasera. Nel blu, dipinto di blu, io e la palla ci diamo nel blu. Vado per la mia strada, ma che nebbia! Si è mai visto un negro nella nebbia? Infatti non si vede. Oggi ho il tram! Devo cercare una luminaria, un'edicola. Oi, l'edicola, scusi, edicolante. Vorrei un'informazione. Prima te me comprate il giornale, poi te do l'informazione. Ma come cazzo parlatemi, scusi. Non per essere razzista, comunque mi dia pure un giornale. Mi dia... Quale? Mi dia la Gazzella dello Sport. Che giornale è? Giornale sportivo. Ma che titolo è la Gazzella dello Sport? Un titolo fantasioso. Non come voi che vedo avete dei giornali, avete un giornale chiamato Il Giornale. Cioè quello che l'ha inventato ha avuto l'ingegno, però Il Giornale, Il Giornale. Deve essere... Sarà uno che ha chiamato suo figlio, figlio. Cane, cane. Noi abbiamo fantasia. Ma va via, nigger. Amo! Guardi, sto anch'io parlando come voi adesso. Sto imbarbarendo me mio medesimo. Guardi, vado via, tanto... Stancato, io c'ho talento. Io adesso mi metto a palleggiare a sto incrocio, trovo una lattina. Se Maometto non va alla montagna, anzi, se Maometto non va alla sede del Milan, la sede del Milan verrà Maometto. Oi, nigger! Chi è? Scappa, nigger! Cos'è? Vedi, sto già parlando. Scappa, nigger, che è una pantera! Pantera? Allora, paura della pantera! Nella giungla ne vedo mille la pantera! Amore, chi sei? Che vuoi? Come chi sei? Che vuoi? Sono un mediano di nome Abdul. Ero riservaggio nel Gabul. E nella notte profonda e nera. Fammi un contratto come Rivera. Fammi un contratto come Rivera. Ma il modo di messaggiare con i manganelli? Questo è il modo di messaggiare un giocatore con i manganelli? Adesso se mi dovete ingaggiare mi dovete prendere con la forza. Ma che squadra siete? Squadra mobile. Cosa vuol dire squadra mobile? Scusi. È chiaro che deve essere mobile la squadra. Ehi, m'han portato giù in ritiro. M'han portato giù in ritiro. M'han portato in ritiro. Località Mena, San Vittore. Con tutta la squadra. 2500. Un cazzo di turnover. Tieni i giocatori stranieri, slavi, marocchini, giocatori brasiliani con le calze di nylon. Cioè, io pensavo che si potessero truccare le partite, ma le mezzale no. Adesso io sto qui in cella, mi alleno con la palla, dico che non passo mai la palla, per forza la palla al piede, slegami che ti faccio dei cross. Poi arriva uno e fa, uè nigger, sa che? Perché ormai parlo anch'io come gli indigeni, sa che? Dimmi su, dai, sa che? Espulso. Non ho neanche cominciato a giocare. Scusate, mi state facendo perdere l'identità calcistica. E io sto qui a palesare, ma anche a chiedermi Kiss. Sono un mediano di nome Abdul. Ero riserva anche a San Vittore. E dalla giungla della galera io torno a casa con la pantera. Io torno a casa con la pantera. Nel blu, dipinto di blu. Ah no, io non ci tornerò più. Nel blu, dipinto di blu. Io non ci tornerò più. Non sono un grande amante dei live perché preferisco esserci, caro Bach, ma i pezzi che finiscono con un grande applauso mi danno sempre una certa soddisfazione. Che dici? Io ho sempre il sospetto che sia un applauso registrato. Uno di quei belli effettoni scaricati in MP3. O come quello che inizia questa puntata. Sì, guarda, io penso che dovremmo mettere su tipo uno studio di registrazione, risate, applausi, e poi vendere le trasmissioni. Anche se, guarda, secondo me se si mettono... Mettiamo un annuncio su Porta Portese: vende risate e applausi, affittasi anche con attrezzatura propria. Cercasi dei prestiti, cercasi complimenti. Oppure, che so, un'inserzione sul giornale: cerchi lavoro? Abbiamo il lavoro per te, vieni a fare una risata. No, e che sia sincera. Taccio. Più che altro tipo mi metto a raccontare con le piume, no? Con le piume sotto i piedi. Oppure con le mie barzellette. Ah, allora il massimo. Allora proprio sicuro che stanno tutti a piangere. Senti, comunque dicevamo che gli applausi magari ti fanno pensare anche a un certo classico. E allora io vorrei continuare la nostra programmazione musicale con un altro classico. Tipo? Tipo Baby Please Don't Go. Che è quella Please don't go, don't go. Ci sei quasi. Applauso, vai. Vai, grande. Secondo erano proprio loro, ovvero i Them, ed era un brano estrapolato da una colonna sonora. Sì, quella di Good Morning Vietnam. Non mi riesce bene. No, però possiamo fare Buonanotte Radio Pazza. Azzecchio però. Ma buonanotte perché l'ultimo pezzo, quello che stiamo per programmare, siamo arrivati all'11esimo. No, andiamo ancora avanti un pezzetto. Dai, allora continuiamo un attimo con un ritmo un pochino calzante. Incalzante. Non mi viene. Com'è? Mi piace quando fai tutto da solo. Sei autonomo. Vabbè, ma tu dammi una mano, cribbio. Una mano, una capocciata te darei. Comunque, questo è Jamie Lidl. Jamie Lidl è proprietario di una famosa catena di supermercati. Infatti il pezzo si chiama Multiply. well, so it never used to be so hard, this hard. Used to get those kicks for free, but now I'm towing the line. Oh, the same way you be stuck between my shadow and me. Good at where the sun don't shine. Tell you that I'm doing fine. Oh, I'm so tired. Fantastico pezzo che è nient'altro che la pubblicità di una nota di catena di, sì, di supermercati. Mi stavo impicciando un'altra volta. Dicevo, noi che abbiamo deciso di fare le cose in grande e siamo diventati finalmente dei veri professionisti, dei veri DJ. Abbiamo deciso infatti di pubblicare oggi in esclusiva mondiale, nonché universale, il nostro primo remix di Radio Pazza. Sì. Abbiamo deciso di remixare un pezzo famosissimo di Simon & Garfunkel intitolato The Sound of Silence. Eccolo a voi. Aspetta, però insomma diciamo anche due paroline per salutare i nostri amici e ascoltatori. Ciao. Vabbè, vi lasciamo insomma questo bellissimo remix che tutti vorranno scaricare. Vai. Applausi. Deficienti. Vabbè, ciao. Bella rega.